Riforma del lavoro, oggi la riunione del PD. Camusso attacca sull'articolo 18 da Renzi, cose mai dette prima, pronti ad un'estensione dell'articolo 18 al sindacato. Arriva l'accusa di omicidio volontario per il 22enne che ha investito e ucciso 4 persone nel Salernitano. Fatture gonfiate e truffa al sistema sanitario, indagine e perquisizioni all'ospedale israelitico di Roma, il cui direttore generale è l'ex presidente dell'INPS Mastrapasqua. Dopo un fine settimana di scontri, tornano in piazza i manifestanti ad Hong Kong e chiedono elezioni libere senza l'influenza di Pechino. Abbiamo sottostimato la forza di ISIS, dice Obama. La Turchia si prepara ad intervenire a fianco della coalizione. Ci collegheremo con il confine tra Turchia e Siria. Calcio per le due capolista, Roma-Juventus, l'impegno in Champions e poi lo scontro diretto. Stasera per i posticipi in campo la Lazio contro il Palermo e l'Udinese contro il Parma. Continuano a macinare record di pubblico nei palazzetti mondiali di pallavolo femminile in corso in Italia. Sabato sera spettatori rimasti fuori senza biglietto. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Ancora una volta, ancora oggi, in primo piano la riforma del mercato del lavoro, perché oggi è una giornata decisiva, soprattutto all'interno del Partito Democratico. Ci sarà la direzione che dovrà sciogliere i nodi politici e il confronto tra minoranza e maggioranza, ma si riuniscono anche i sindacati. Iniziamo però dalla parte politica, appunto, con le ultime da Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, una direzione che si annuncia come una resa dei conti, ma per evitarlo il Premier Matteo Renzi è salito questa mattina al Quirinale dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano e subito dopo il Premier ha incontrato i vice segretari Guerini e Serracchiani del Partito Democratico a Palazzo Chigi. All'attacco va la minoranza Dem, Alfredo Dattorre avverte, le condizioni per trovare una mediazione ci sono tutte, basterebbe un piccolo sforzo da parte del segretario. Arriva anche la critica dei giovani turchi con Matteo Orfini, presidente dei Democratici, non correte, servono robuste correzioni al Jobs Act, twitta, su alcune sono arrivate risposte positive, su altre no. Favorevole invece al superamento dell'articolo 18, perché di questo si tratta, l'area centrista di Beppe Fioroni e per il ministro del lavoro Giuliano Poletti, sul reintegro il Premier è stato chiaro, ci sarà solo per i licenziamenti discriminatori, ma di certo risuonano le parole dette da Renzi ieri a Che Tempo Che Fa, cambiamo per i lavoratori, non per la minoranza del Partito Democratico e soprattutto il Jobs Act prevede l'eliminazione del precariato, TFR in busta paga, 1,5 miliardi per gli ammortizzatori sociali. A te Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Sono riuniti anche i vertici del sindacato in queste ore proprio per discutere di riforma del mercato del lavoro e sono nella sede della CISL dove si trova il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno, faccia a faccia a quello che si sta svolgendo qui in via Po, nella sede della CISL, a porte chiuse questa riunione organizzata per trovare una posizione unitaria sulle mobilitazioni da adottare contro le modifiche al Jobs Act. Gli annunci del Presidente del Consiglio Renzi sull'articolo 18 hanno finito di fatto per ricompattare CGIL, CISL e UIL, che fino a qualche settimana fa avevano giudizi diversi sulla delega di riforma del mercato del lavoro. I leader sindacali si sentono tagliati fuori dal Premier, che accusa la leader della CGIL, Susanna Camusso, sembra invece dialogare solo con Confindustria. Il punto, aggiunge Camusso, sono le parole di Renzi, la garanzia alle imprese della libertà di licenziare, una cosa mai detta prima in questo paese. La CGIL da parte sua sarà già in piazza San Giovanni a Roma il 25 ottobre e preannuncia lo sciopero generale se ci sarà un'accelerazione del governo con un decreto, ed è proprio su questa forma di mobilitazione che ci si aspetta una convergenza, magari con una nuova data che vada bene a tutto il sindacato. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Passiamo all'estero, iniziando da una notizia appena battuta dalle agenzie. Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha annunciato, come del resto era previsto, che il ricorso davanti alla Corte Costituzionale contro il referendum sull'indipendenza della Catalogna ci sarà, referendum indetto, come sapete, per il 9 di novembre. E veniamo invece alle vicende dell'ISIS. Il presidente americano Barack Obama ieri ha fatto un mea culpa dicendo che è stata sottostimata la forza del cosiddetto califfato, il cosiddetto stato islamico. Ha detto Obama di questo questo torneremo a parlare più avanti in America 24. Nel frattempo però la Turchia ha detto che non può restare fuori dalla coalizione internazionale che sta combattendo gli jihadisti. Le parole sono del presidente turco Erdogan. La prossima settimana Ankara deciderà il tipo di intervento. Noi ci colleghiamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che si trova al confine tra Siria e Turchia. Alberto, qual è la situazione? Buongiorno. Buongiorno a voi, qui mi trovo a Kobane, che è il punto più caldo di tutto il confine turco-siriano, dove si sta combattendo da giorni una battaglia intorno a questa cittadina siriana che è a 400 metri dal confine. Kobane è accerchiata dall'ISI, dal califfato, mentre ci sono migliaia di profughi che premono per venire dalla parte turca e per scappare, soprattutto dai villaggi intorno a Kobane, dove l'ISIL è penetrato e ha tagliato teste, insomma ha commesso ogni tipo di barbarie e di orrore, ma è una strana guerra che sta mettendo anche in grave difficoltà lo stesso Erdogan, perché sì, lui dichiara che la Turchia deve entrare in campo, ma in realtà in questo momento stanno sparando lacrimogeni per impedire ai giovani curdi che vogliono andare di là a combattere contro il califfato di passare il confine. Insomma, c'è molta contraddizione in quello che sta accadendo qui, mentre l'ISIS sta martellando con colpi di mortaio Kobane da giorni e anche qui sono caduti dalla parte turca. Insomma, prima di scendere in campo Erdogan dovrà sciogliere molti nodi politici. Alberto, quanto e come quella zona è stata colpita, dalla zona nella quale ti trovi, è stata colpita dai raid della coalizione? I raid della coalizione, secondo quanto affermano qua i curdi, è una testimonianza di parte, questo è chiaro, però non sono ancora serviti a molto, perché nonostante le postazioni dell'ISIL siano fuori ancora da Kobane, ma sono molto vicine, a 2, 3, 4 chilometri, 5 chilometri al massimo, quindi bombardare significa anche rischiare di colpire le popolazioni civili e i curdi, i guerriglieri curdi che combattono contro gli uomini, i jihadisti del califfato, le milizie del califfato. Quindi qui i bombardamenti sono stati ancora inefficaci secondo le testimonianze sul posto. Allora io ti ringrazio Alberto Negri, naturalmente torneremo a sentirti nel corso dei nostri appuntamenti con l'informazione e naturalmente anche in effetto giorno. Saluto Stefano Bonaccini del Partito Democratico, a questo punto dopo le primarie che si sono svolte ieri, candidato alla presidenza dell'Emilia Romagna. Benvenuto e buongiorno. Allora, è stato un percorso diciamo piuttosto accidentato, per così dire, prima l'indagine, poi c'è stata l'archiviazione per quanto riguarda le spese e poi appunto ieri le primarie. Primarie che però hanno avuto un'affluenza bassissima, Bonaccini, una partecipazione molto scarsa. Sì, perché è come paragonare la Coppa dei Campioni con una primaria nazionale con due mesi tutte le sere in TV nazionale, sui giornali e le radio, a una partita di prima categoria fatta in 15 giorni senza nessun network che ne parlasse. Non abbiamo potuto produrre un manifesto, nessun materiale spedito a casa, 1,5 milioni di famiglie dell'Emilia Romagna come eravamo soliti fare, perché non c'è stato il tempo. Lei sa che noi con le elezioni anticipate abbiamo dovuto accelerare, il 12 settembre si sono presentate le candidature e dopo 15 giorni c'erano le primarie. È in mezzo, come ha giustamente ricordato lei, l'inchiesta, e quindi è stata davvero la primaria forse con le spese più basse che si siano mai sostenute. Dopodiché, guardi, il non traino nazionale, il pochissimo tempo a disposizione, tenga conto che io quando feci le primarie nel 2009 per diventare segretario generale sono durate 4 mesi, abbiamo girato tutta l'Emilia Romagna, poi c'è anche una certa stanchezza alle primarie, per la verità, perché noi qui in Emilia Romagna è stata la regione dove a maggio si è votato nel più alto numero di comuni come percentuale rispetto alle regioni italiane. Si fanno troppe primarie, Bonaccini, si fanno troppe primarie? No, il problema non è che se ne fanno troppe, è farne troppe a pochi mesi di distanza, nel senso che ne abbiamo fatte a marzo per molti comuni che andavano al voto, a maggio si sono votate le elezioni e a settembre ci siamo ritrovati a doverle fare, come peraltro io le ho difese perché mi sono candidato e da segretario le ho proprio volute e difese e le abbiamo realizzate pure in quel contesto. Però non vorrei diventassero come il referendum per i radicali, nel senso che se ne abusiamo rischiamo che lo strumento venga meno valorizzato. Dopodiché le posso anche dire questo, sono venute 60.000 persone, il Movimento 5 Stelle ha scelto una candidata, quelli che sono per la democrazia diretta e l'uno vale uno, che ha preso 266 click dietro la tastiera di un computer, quindi guardi, io penso che adesso l'importante è parlare di contenuti e parlare di che regione vogliamo e fare questi due mesi di campagna elettorale che secondo me sarà bellissima, peraltro una primaria fatta senza alcuna polemica, credo abbiamo dato da questo punto di vista l'esempio. Allora, grazie a Stefano Bonaccini, sicuramente sui contenuti ci andremo, ne parleremo naturalmente anche con gli altri candidati quando verrà il momento. Veniamo alla cronaca italiana, perché è arrivata l'accusa di omicidio volontario per il 22enne che ha investito e ucciso 4 persone. L'accusa è stata formulata all'alba quando, dopo aver lavorato tutta la notte, la procura di Lago Negro ha cambiato il capo di imputazione a carico di Gianni Pacello. Non più omicidio colposo, ma omicidio volontario per il 22enne di Sassano, che ieri con la sua BMW è piombato sui tavolini di un bar uccidendo 4 giovani, tra i quali suo fratello. Aveva bevuto troppo Gianni, al punto da perdere il controllo della sua auto mentre imboccava la rotatoria che collega diversi comuni e piombare come un missile su quei giovani. Il tasso di alcol riscontrato nel suo sangue era 3 volte maggiore al consentito, per questo non doveva mettersi alla guida dell'auto, secondo gli investigatori. Prima o poi doveva succedere, ripetono in molti in paese, Gianni correva troppo. Era già rimasto coinvolto in un incidente nel quale morì un suo amico, Giovanni Rubino. I due erano a bordo di una Toyota, ma non guidava Pacello, che correva e finirono con l'auto contro un albero. Arrestato ieri, il 22enne si trova ora ricoverato in ospedale per le ferite riportate nell'impatto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora cronaca, ma giudiziaria in questo caso. Perquisizioni stamattina all'ospedale israelitico di cui l'ex presidente INPS è direttore generale. Si ipotizza una truffa ai danni del sistema sanitario nazionale. L'operazione è scattata in mattinata. I carabinieri hanno eseguito una serie di perquisizioni e sequestri negli uffici della Regione Lazio e nell'ospedale israelitico, ma anche in 2 ASL e 3 ambulatori. A disporle è stata la Procura di Roma. Le nuove indagini nascono dagli sviluppi dell'inchiesta sulla presunta truffa da 14 milioni di euro ai danni del sistema sanitario nazionale, che da gennaio vede indagato anche l'ex presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, nella veste di direttore generale del nosocomio. Secondo gli inquirenti, l'ospedale israelitico avrebbe ricevuto rimborsi gonfiati per prestazioni mediche che non corrispondevano a quelle realmente effettuate. L'inchiesta principale riguarda fatti che risalgono al 2009. Oltre a Mastrapasqua, sono indagati altri 7 dipendenti della struttura sanitaria e 2 funzionari della regione legati a precedenti amministrazioni. Quell'attuale ha infatti congelato la convenzione con l'ospedale israelitico. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo vanno dal falso alla truffa ai danni del servizio sanitario nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E cambiamo decisamente argomento. È stato presentato questa mattina il regolamento del prossimo Festival di Sanremo. C'è la nostra Marta Cagnola che ha seguito questa presentazione in studio qua. Marta, allora, come funziona? Ce l'ho qua in mano, stampato. Sono 27 pagine, fresco, anzi caldino ancora di stampa. Cosa succederà? Beh, succederà che intanto il Festival di Sanremo sarà dal 10 al 14 febbraio 2015. Ci saranno 16 big con le eliminazioni. La prima serata ne canteranno 8, la seconda serata ne canteranno 8, 4 per serata saranno al sicuro, 4 saranno sotto la sufficienza. Poi nella serata del venerdì le 16 canzoni diventeranno solo 14, quindi 4 vengono eliminate, ma insomma solo per la serata finale. Ci saranno i giovani che saranno 8 e per rendere un po' più pepata, forse un po' talent show la competizione, ci sarà un torneo tennistico. Quindi sfide dirette. È un'impressione mia, ogni anno diventa un po' più complicata. Ah, guarda, 27 pagine di regolamento, bisogna studiarlo per bene. Però c'è una notizia. Ah, la notizia è che per la prima volta ci sarà il voto telematico. Si potrà votare via app, via web. Il voto non sarà gratuito, sarà come il televoto, ma questo è anche comprensibile perché così, insomma, altrimenti arriverebbero fantastiliardi di voti. Però per la prima volta il Festival di Sanremo va nella modernità più assoluta, si potrà votare anche via web. web. Non si sa ancora niente di preciso invece sul cast, sulle, quello è ancora troppo presto. Prevedo mega polemiche sulla sicurezza di questo voto. Intanto io ti ringrazio, Marta, perché già ce l'abbiamo presente. Ma è il sale di tutto. Allora, grazie a Marta Cagnola. Allora, tra un attimo parleremo di calcio, però ogni tanto fateci parlare anche di qualche altro sport, a partire dai mondiali femminili di volley che si stanno svolgendo in Italia. Per le azzurre medaglia ancora lontana, ma il successo di pubblico è conquistato. Sentiamo. Sarà che sono belle, simpatiche e pure forti. Sarà che la pallavolo è, dopo il calcio, il secondo sport in Italia per numero di tesserati, circa 200.000, il 60% donne. Sarà pure che lo sport dal vivo, malgrado tutto, il suo fascino lo conserva ancora. Certo però i numeri messi assieme dalle gare dell'Ital Volley in rosa a Roma, nella prima fase dei mondiali che stiamo ospitando, una certa impressione la fanno. Dai 9.000 spettatori dell'esordio contro la Tunisia agli oltre 10.000, cioè l'automatica esaurito delle serate successive. Il top sabato sera contro la Germania, quando all'Euro erano 10.612 sugli spalti e 500 invece i tifosi rimasti fuori dai cancelli perché di biglietti non ce n'erano più. E per la fase conclusiva di Milano, finalissima il 12 ottobre, già previsto il tutto esaurito, nella speranza che Piccinini e soci siano protagoniste fino all'ultimo giorno. Insomma, se una medaglia è un obiettivo ancora tutto da centrare, il successo di pubblico è già una certezza. Certo non nasconde le magagne di un movimento che presenta un campionato negli ultimi anni sempre più povero di campionesse e risorse finanziarie, ma da questi sold out si può e si deve ripartire. A Lega Volley e Federazione il compito di non disperdere sotto rete questo tesoretto di interesse e passione. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il calcio adesso con il nostro Carlo Genta, in attesa dei due posticipi di questa sera, ma soprattutto in attesa di una settimana che vede le due capoliste impegnate in Champions e poi una contro l'altra, Carlo, sì, no? Sì, finalmente una contro l'altra, almeno avremo uno spariglio magari di una classifica che già vede la Roma e la Juventus lassù e dietro si combatte grosso modo nel fango, continuando a scivolare come fanno Milan e Inter. Credo che la notizia della domenica sia stata, anzi sono certo del fatto che la notizia della domenica sia stata il tracollo clamoroso dell'Inter, clamoroso anche nei numeri in casa con il Cagliari, un Milan che si è un po' involuto, o molto involuto, due pareggi consecutivi contro due neopromosse e un progetto non più così chiaro, e poi c'è stato il botto finale del derby di Genova con il gol di Gabbiadini nel finale che ha dato la vittoria alla Sampdoria, che ha scatenato Ferrero, presidente sampdoriano, è stato una giornata che ormai incassante. È l'idolo di tutti i convocati, quindi l'idolo totale di tutti i convocati, che quindi sentiremo ampiamente anche in questa puntata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. I magistrati tornano all'attacco di Renzi, da lui affermazioni che non rispondono a verità, ha detto poco fa l'Associazione Nazionale Magistrati. Sulla riforma del lavoro oggi la riunione del Partito Democratico. Arriva l'accusa di omicidio volontario per il 22enne che ha investito e ucciso 4 persone nel Salernitano. Nella seconda parte della trasmissione torneremo su questa vicenda. Dopo un fine settimana di scontri tornano in piazza i manifestanti ad Hong Kong e chiedono elezioni libere senza l'influenza di Pechino. Madrid ha annunciato poco fa il ricorso alla Corte Costituzionale contro il referendum per l'indipendenza della Catalogna. Il calcio per le due capoliste a Roma e Juve, l'impegno in Champions e poi lo scontro diretto. Torna con noi Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano ed editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Parsi, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Con lei vogliamo parlare delle vicende di Hong Kong, dove, come abbiamo riassunto un po' grossolanamente nei titoli, è in corso una forte protesta di piazza per chiedere elezioni libere, di fatto senza il vincolo di Pechino, che vorrebbe addirittura imporre i candidati. Ci sono stati degli scontri, adesso la situazione pare essersi placata, quantomeno dal punto di vista delle violenze. Ci può aiutare ad inquadrare meglio la situazione? Beh, voi sapete, il sistema delle relazioni tra Cina e Hong Kong è fondato sull'idea del un paese e due sistemi, che fu quello attraverso il quale venne, diciamo così, sminato il passaggio di Hong Kong sotto governo della Cina comunista. Ora, questo sistema in qualche modo viene messo in discussione da Pechino, che peraltro ha sempre controllato l'esito finale delle elezioni, nel senso che la leadership di Hong Kong è sempre stata più che allineata con quella di Pechino, ma che in qualche modo pensa di poter normalizzare completamente la situazione. rispetto al resto del paese. Perché lo sta facendo, ma probabilmente è legato a questo tentativo di modernizzare il sistema politico cinese stesso, il quale potrebbe essere in qualche modo, un processo potrebbe essere in qualche modo esposto a qualche rischio dalla persistenza di una così evidente differenza tra i due sistemi elettorali Vorrei capire da lei, Parsi, perché qualcuno ha evocato il rischio di una nuova Tiananmen ad Hong Kong. Vorrei capire dal suo punto di vista come la vede. Allora, intanto in politica tutto è possibile, per così dire, nel senso che questo è un fenomeno che in qualche modo la Cina ha sottovalutato, però la vedo un pochino più complicata, perché Hong Kong appunto innanzitutto è una piccola porzione del paese e il cui destino è molto lontano dalla sensibilità, dagli interessi del resto dell'opinione pubblica cinese continentale. Sicuramente questo è un incidente di percorso che la dirigenza cinese non desiderava che si aprisse e che però credo non esiterebbe a chiudere con la repressione, in questo senso sì, alla Tiananmen, se ritenesse che fosse necessario farlo. Allora, grazie a Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano ed editorialista del Sole 24 Ore. E io saluto adesso Salvatore Parello, che è sindaco di Aragona, siamo in provincia di Agrigento. Sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, è il comune nel quale si trovano gli ormai tristemente famosi vulcanelli. L'esplosione di uno di questi vulcanelli ha provocato la morte di due bambini nei giorni scorsi, nel fine settimana, nella giornata di sabato. Sindaco, io ho visto che su questa vicenda c'è stato una sorta di rimpallo di responsabilità, perché i responsabili di quest'area, che è un'area tutelata dal punto di vista ambientale, appartengono alle Legambiente, dicono insomma c'è stata un po' da parte degli enti locali, c'è stata, come dire, una scarsa attenzione alla sicurezza di questi luoghi. Che cosa ci dice? Beh, guardi, è normale che quando succede una sciagura, una tragedia, tutti cominciano a rimbalzarsi le responsabilità. Su questo tema forse è il momento di essere molto cauti e far lavorare la magistratura, farla lavorare in maniera serena. Se responsabilità ci sono e se ci sono responsabili, emergeranno. Una cosa è sicura: purtroppo sabato, a seguito di questo ribaltamento, di questa esplosione, Aragona ha perso due angioletti, due piccoli bambini. Questa comunità è profondamente segnata, addolorata, provata, così come sono profondamente segnati i genitori e i familiari. Macalubbe per Aragona è sempre stato un sito amico, ecco, ci siamo sentiti come traditi. Di questo sito ne parla Plinio il Vecchio nei suoi scritti, così come ne parla Goethe nel suo viaggio in Sicilia. Mai a memoria d'uomo era successa una cosa del genere. L'eccezionalità ci sta tutta, però spesse volte, ecco, la forza della natura viene anche accompagnata da quella che è la mano dell'uomo. Lasciamo lavorare la magistratura e vedremo. Beh, però se cita lei stesso, sindaco, la mano dell'uomo, insomma, qualcosa avrà in mente da questo punto di vista. Beh, guardi, nel momento in cui questo sito era libero, l'accesso era libero a chiunque, perché c'erano i privati, magari si trovavano spesso i contadini o gli allevatori che raccomandavano alle persone: guardate che è un periodo in cui c'è pericolosità, non andate sul sito, allontanatevi. Se trovano tutto aperto e le persone entrano e non c'è nessuno che dice questo, è un problema. Allora, grazie a Salvatore Parello, sindaco di Aragona, provincia di Agrigento. Su questa vicenda torneremo naturalmente se ce ne sarà occasione. Nel frattempo sappiamo che la procura indaga per duplice omicidio colposo. Noi ci spostiamo per un argomento, se vogliamo, parallelo, ma che riguarda il Giappone. In Giappone è eruttato un vulcano, ci sono vittime e dispersi e i soccorsi sono difficilissimi. Sale da 4 a 10 il bilancio delle vittime accertate dell'eruzione del vulcano Ontake che sabato nel Giappone centrale ha sorpreso quasi 300 escursionisti. Un bilancio che però potrebbe ancora aumentare. I feriti sono più di 60, mentre sul numero dei dispersi c'è ancora molta incertezza. L'eruzione infatti prosegue e le attività dei soccorritori, oltre 500, continuano freneticamente tra mille difficoltà. Nel frattempo altri 24 escursionisti sono stati messi in salvo alle pendici del vulcano Ontake, che si trova a 200 km da Tokyo, la cui eruzione, l'ultima è stata nel 1979, questa volta era davvero difficile da prevedere. Erano circa le 11.53 locali, le 4.53 in Italia, quando il vulcano ha iniziato la sua attività, ripresa per caso da una troupe della TV pubblica. Drammatico il racconto dei sopravvissuti. Era difficile respirare e vedere oltre i 15 centimetri, hanno spiegato. Qualcuno ha parlato di un boato, di un pennacchio di cenere venuto giù come una valanga, ma anche di massi che cadevano come proiettili. Il vulcano Ontake, il secondo più alto del Giappone con 3.067 metri dopo il Fujisan, è noto per la salita relativamente facile, per la presenza di diversi rifugi e di una funivia. Il periodo migliore per le escursioni è proprio tra fine settembre e ottobre e per questo era piuttosto affollato. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E un'ultima notizia di cronaca italiana, battuta poco fa: un carabiniere del nucleo radiomobile di Piacenza è morto, con meritone molto grave, per aver tamponato un tir durante l'inseguimento di un Audi. Forse si trattava di una macchina rubata vicino all'ingresso dell'autostrada A21 a Castel San Giovanni nel Piacentino. La gazzella dei carabinieri è rimasta incastrata attorno alle 12.30 sotto il mezzo pesante. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. I magistrati tornano all'attacco di Renzi, da lui affermazioni che non rispondono a verità. Sulla riforma del lavoro oggi c'è la direzione del Partito Democratico, le minoranze sono riunite in questi minuti prima dell'incontro. Dopo un fine settimana di scontri tornano in piazza i manifestanti ad Hong Kong, chiedono elezioni libere per il 2017 senza l'influenza di Pechino. Un carabiniere a Piacenza è morto, un suo commilitone gravissimo, hanno tamponato un tir force inseguendo un'auto rubata. Arriva l'accusa di omicidio volontario per il 22enne che ha investito e ucciso 4 persone nel Salernitano. La borsa. Borse in diretta. Ed è una giornata, quella della borsa italiana oggi, che commentiamo come sempre con i colleghi di Radio Cor, Il Sole 24 Ore, e con Isabella Tasso. Isabella, buongiorno. Buongiorno. Allora, come vanno i mercati oggi? Negativi, mi pare. Sì, i mercati sono negativi, sono partiti già su un tono negativo, poi hanno allargato le perdite. Milano perde circa l'1%, c'è incertezza sui mercati in vista di una settimana significativa da un punto di vista macroeconomico. Ci sono i dati sul mercato del lavoro statunitense più avanti nella settimana, c'è la riunione della Banca Centrale Europea giovedì prossimo, così ci sono realizzi dopo il rally di venerdì scorso, realizzi che a Milano colpiscono soprattutto il settore bancario. Unicredit fa meno 1,5%, Intesa San Paolo perde oltre il 2%. Altri titoli da segnalare? Ma Telecom è debole, perde circa il 2%, venerdì scorso c'è stato il consiglio di amministrazione, un consiglio piuttosto atteso, che ha accettato la proposta di Fintech degli argentini di allungare i tempi per la vendita di Telecom Argentina. Per il resto rimbalzano invece i titoli che erano stati più penalizzati la settimana scorsa: Jux fa più 1%, Buzzi Unicem più 1%, bene anche Pirelli, ST e Prismian. Grazie anche per oggi a Isabella Tasso e ai colleghi di Radio Cor, Il Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona Isabella. Giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E arrivano dettagli sul comunicato dell'Associazione Nazionale Magistrati, che dice a Renzi, che chiede a Renzi di rispettare la verità. Dice: il Presidente del Consiglio ha fatto affermazioni che non corrispondono alla realtà. La NM non ha mai dichiarato che l'introduzione di un tetto massimo alle retribuzioni di 240.000 euro annuali sia un attentato alla libertà o all'indipendenza della magistratura. Così la NM, che apre dunque un altro fronte di scontro con il Presidente del Consiglio. Saluto Giordano Biserni, che è presidente dell'ASAPS, l'Associazione Amici della Polizia Stradale. Buongiorno e benvenuto, Biserni. Sì, buongiorno a lei, ascoltatore. Allora, la chiamiamo naturalmente per la vicenda, quella avvenuta nel Salernitano, dove un ragazzo di 22 anni, alla guida di una BMW, ha investito quattro persone che erano sedute al bar e le ha uccise. La procura in questo momento sta ipotizzando l'omicidio volontario. Vedo già gli ascoltatori che si scatenano e scrivono, c'è qualcuno che scrive come Matteo da Milano: l'alcol più guida è omicidio e non incidente. Qualcuno ci chiede che fine ha fatto l'ipotesi dell'introduzione di un delitto di omicidio stradale, tanto se ne è parlato nei mesi scorsi, come lei ricorderà, Biserni. Vorrei sapere cosa ne pensa. Ma guardi, noi siamo i promotori delle firme per l'omicidio stradale insieme all'associazione Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni, si figuri, noi siamo assolutamente, come devo dire, di guardia su questo argomento. Siamo rimasti all'ultima audizione parlamentare avvenuta il 24 luglio scorso alla Commissione Giustizia, che ci ha ascoltato con molta attenzione, ma da allora non abbiamo più saputo niente. La nostra proposta scaturisce da episodi come quello di oggi, no? Che documentano, come in questo caso siamo di fronte a uno straomicidio stradale, documentano come il coraggio di alcuni magistrati di andare a contestare l'omicidio volontario, che poi bisognerà vedere se tiene in termini di giudizio nei vari gradi del procedimento, debba essere sgomberato il campo va sgomberato. Omicidio colposo o omicidio volontario, bene, realizziamo l'omicidio stradale in modo che sia chiaro che chi ha bevuto con valori alcolemici superiori a 0,8, chi è drogato, chi si dà la fuga risponderà di questo tipo di reato, oltre all'ergastolo della patente. E l'ergastolo della patente, che ha già avuto una risposta nella commissione trasporti perché incide sul codice della strada, per quest'altro argomento aspettiamo invece delle risposte dal Parlamento. Io le dico con franchezza, se lei mi permette, non vorremmo far diventare questa situazione una sorta di articolo 18 della sicurezza stradale, perché rimbalza un po' troppo. Lei dice troppo tempo che se ne parla e alla fine non si conclude niente. Sì, ci sono interessi contrapposti, strani, che vanno in qualche maniera intercettati. Noi continuiamo a insistere a vedere che di fronte a un provvedimento che, guardi, glielo dico con franchezza, sarebbe un provvedimento a largo consenso popolare, a costo zero, però nonostante che il Presidente del Consiglio si sia impegnato su questo argomento già dal 24 luglio, il giorno del suo insediamento, parliamo di Matteo Renzi, che è il primo firmatario della proposta Guarnieri, Borgogni e ASAP, voglio ricordarlo, si trovano delle resistenze. Probabilmente chi ha la gestione della giustizia anche in termini difensivi probabilmente teme un provvedimento che in qualche modo riesca a intercettare tutti i meccanismi che fanno sì che per l'uccisione di una persona sulla strada da ubriachi o drogati la pena media oggi molto comoda, patteggiata e con lo sconto, è di 2 anni e 8 mesi, vale a dire di un borseggio in metropolitana. A noi questo non sta bene, non va bene, dobbiamo dare una risposta, perché da una parte gli incidenti stradali è vero che diminuiscono, ma stanno aumentando in modo preoccupante le fughe, per esempio all'alzano, le piraterie stradali, tutti gli aspetti deteriori più gravi della mobilità stradale. Noi non ci stiamo, insistiamo e vorremmo vedere finalmente approvato un provvedimento che è là, che galleggia, ma che non viene fuori. Come avete intenzione di muovervi? Ma guardi, noi continuiamo intanto nella raccolta delle firme e cerchiamo di capire se si intende inserire il provvedimento nella riforma della giustizia. Allora credo che avremo purtroppo ancora molto tempo da attendere. Speriamo, ci auguriamo, abbiamo dei segnali dagli ambienti vicini al Presidente del Consiglio che si vorrebbe trovare un meccanismo che accorci questo itinerario. Ne è in mano, il provvedimento è sotto la custodia, diciamo, e l'attenzione del Vice Ministro Riccardo Nencini. Ci auguriamo, convinto assertore peraltro di questa misura, ci auguriamo che finalmente la condizione si sblocchi. Non credo che le associazioni familiari vittime della strada debbano continuare e le vittime in genere ad incatenarsi di fronte a questa condizione, perché il problema qual è? Che ci dicono ci sono già le norme, è vero, le norme ci sono già e appaiono anche severe, appaiono, ma con le pene minime di questo tipo il conto non lo paga mai nessuno, e quando il legislatore ha voluto... E poi Biserni c'è anche un problema di interpretazione da questo punto di vista, perché a seconda di come gira al pubblico ministero può contestare o a come ritiene opportuno, naturalmente, può contestare l'omicidio volontario oppure appunto l'omicidio colposo. In questo caso è stato l'omicidio volontario. E come si vanno a concludere in genere questi procedimenti? Cioè, allora, le corti come si comportano? Sì. Come decidono i giudici? Allora, diciamo che questo avviene da un po' da quando è iniziata la raccolta delle firme, che alcune procure si sono attivate, abbiamo Bologna dove si sono attivati in questa direzione, abbiamo il caso emblematico dell'albanese che ha fatto i 20 km contromano sulla A26 e ha ucciso i 4 ragazzi francesi. In questo caso in primo grado gli hanno pioppato 21 anni per omicidio volontario, in appello era stato chiesto l'omicidio colposo anche dalla procura generale, confermati 21 anni, ma sono casi sporadici, rarissimi, e vedremo se vanno a canestro da questo punto di vista in termini anche penali. Noi per sgomberare il terreno diciamo però anche questo, le do un esempio, nella pirateria stradale l'osservatorio del Centauro ASAPS ha registrato oltre 4.000 episodi dal 2008 al 2013, 653 morti, e 172 dei quali legati sicuramente ad alcol e droga. Se noi facciamo l'elenco dei 172 pirati di cui abbiamo nomi, cognomi e indirizzi, nel senso che sono sulla stampa, vogliamo vedere quanti sono quelli che hanno pagato un qualche conto degno di rilievo in termini penali e di giustizia. Finisce tutto in un fascicolo, in un patteggiamento e in un discorso con le assicurazioni. Questo non va bene. Poi alla domanda ci dicono: ma perché credete che diminuiscano gli incidenti stradali mortali con questa misura? Non lo sappiamo, però sappiamo una cosa, che aumenterà la giustizia per le famiglie e per le vittime della strada, e mica è poco. Allora, grazie Giordano Biserni, che è presidente di ASAPS, l'associazione Amici della Polizia Stradale. Allora, un paio di notizie prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade. Innanzitutto c'è una prima dichiarazione di Pierluigi Bersani rivolta a Matteo Renzi ancora sul tema del lavoro e dell'articolo 18, a testimonianza di uno scontro che sta continuando ad accendersi. Matteo Renzi, dice Bersani, ha detto cose anche stravaganti, ragionamenti del tipo: siccome abbiamo pochi occupati e molti disoccupati, togliamo l'articolo 18, forse viene il dubbio che non c'entri un tubo l'articolo 18, così appunto Pierluigi Bersani, componente delle minoranze del PD, del PD che in questi minuti, lo ricordiamo, sono riunite prima che ci sia la direzione. Poi vi dobbiamo dar conto delle dichiarazioni di questa mattina del ministro dell'Interno Angelino Alfano, lo abbiamo sentito anche venerdì in effetto giorno. Ha detto che l'allerta per il terrorismo, appunto per la lotta contro l'ISIS, resta elevatissima, e ci sono anche dei chiarimenti che arrivano per quanto riguarda i cosiddetti i foreign fighters, ossia quelli che vanno a combattere insieme all'ISIS dall'Italia. In tutto gli italiani o le persone collegate all'Italia in qualche modo sarebbero 48, così il ministro dell'Interno Alfano. E a proposito di terrorismo islamico e terrorismo jihadista, c'è un ultimo aggiornamento che arriva dalle Filippine, dove i due tedeschi rapiti appunto dai terroristi islamici nel paese hanno lanciato un appello al governo tedesco perché faccia ogni sforzo per liberarli. L'appello è arrivato, secondo la Bild, da un uomo che si è qualificato come medico alla radio Zamboanga City. Ed era l'ultima notizia ed è tutto per effetto giorno. Un ringraziamento a Filippo Aureggi in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Effetto giorno, @radio24.it per scriverci. Ci risentiamo tra un attimo con GR24 e domani alle 13 con Effetto Giorno.